Italia in controluce. 13:34 minuti, buona giornata cari ascoltatori da Alessio Maurizi, l'appuntamento di Radio 24 con i fatti, i personaggi, le curiosità, le eccellenze per raccontare la nostra Italia in controluce. E oggi andiamo in Veneto alla ricerca dei contraccolpi elettorali, se ce ne sono stati. Insomma, vogliamo capire come e perché questa regione, 5 milioni di abitanti, che produce il 10% del PIL nazionale, abbia scelto una guida finalmente leghista. Finalmente perché proprio in questa terra va rintracciato uno degli inizi del cammino leghista, che risale addirittura al 1978 con la nascita della Lega Veneta. Un cammino che oggi culmina con il sorpasso atteso da parte del Carroccio ai danni del suo alleato Popolo della Libertà. 35% alla Lega, 24,5% al PDL. Il centrosinistra è stato praticamente doppiato da Luca Zaia, anche se, andando a ben guardare, un candidato, anzi una candidata che poteva almeno fare la partita c'era. E allora in questo viaggio ci accompagna Valentina Furlanetto. Tre ministri veneti, ma un difficile rapporto con il potere romano, il sogno dell'autonomia ma la necessità, anche infrastrutturale, di restare connesso al resto del mondo. È tra questi opposti che si deve leggere il laboratorio veneto, un tempo locomotiva d'Italia, oggi in grave sofferenza. Qui, fra le colline del Prosecco e i capannoni del Trevigiano, 19 imprenditori negli ultimi mesi si sono tolti la vita causa crisi. Ed è stato espresso proprio qui un plebiscito per Luca Zaia, ma la gara in effetti non c'è stata. Il PD ha prodotto una candidatura in vitro che non era espressione del territorio e non ha convinto, ma una candidata c'era del territorio, e infatti alle urne ha ottenuto 26.000 preferenze, il secondo miglior posizionamento in assoluto in regione. Si chiama Laura Puppato ed è sindaco di Montebelluna. La cosa che mi era parsa onestamente fuori luogo era proprio il fatto di buttare lì, sembrava buttata lì sul piatto, una candidatura terza, non conosciuta sostanzialmente in larga parte del territorio, non riconosciuta come leader politico e come figura di riferimento politico, a poco più di un mese dalle elezioni. Cioè, questa cosa, e oltretutto per una coalizione che comunque era dal punto di vista politico molto coesa, perché andava a coprire esattamente l'ambito a noi, diciamo, consueto, quello del centro-sinistra. Quindi la ragionevolezza della scelta mi è sfuggita. Evidentemente non è sfuggita solo a me. E questa cosa ha probabilmente anche portato a un risultato molto più scarso di quanto avremmo potuto auspicare. Confesso, il mio conflitto di interessi è palese. Io a Montebelluna sono nata e cresciuta. Laura Puppato, in questa roccaforte leghista, ha vinto le elezioni 8 anni fa, convincendo 31.000 riluttanti cittadini ad appendersi l'eco calendario in cucina e a dividere i rifiuti in 7 categorie differenti. Un inferno per casalinghe e vecchietti, ma anche un coinvolgimento totale che ha dato i suoi risultati. La raccolta differenziata sfiora l'80%, 5.000 tonnellate in meno in discarica, un risparmio di 470.000 euro annue per il comune e per i cittadini un calo del 30% della tassa rifiuti. Mi sono assunta la responsabilità di un cambiamento radicale. Ho voluto che questo intervento avesse i crismi dell'efficienza. I risultati sono stati straordinari, nel senso che neanche io me li aspettavo. Ha alimentato una corrente di pensiero molto positiva, mobilità sostenibile, piste ciclabili. Qui siamo diventati uno dei primi enti nazionali che hanno, uno dei 9 enti nazionali che hanno accettato di sperimentare il Trattato di Kyoto realmente nel proprio comune. Il candidato scelto da Roma per correre in regione, Bortolussi, avrebbe dovuto convincere gli artigiani, essendo a capo della CGA di Mestre, ma non è stato affatto così. Mario Pozza, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Bortolussi non è un artigiano, Bortolussi è il direttore di un'associazione, che è diverso da essere l'artigiano. Se, perché è il direttore dell'associazione del Centro Studi di Mestre, doveva portare a casa una valanga di voti, non è così. C'è da dire e constatare che la Lega sa capire quali sono le istanze del territorio, sa ascoltare la gente, frequenta la gente, e questo li ha premiati. È una grossa sfida per la Lega comunque, perché questa qui, credo, da qui la Lega al suo futuro si gioca. Perché adesso non può avere più nessuna scusante sulla gestione del potere. ha un suo compito da svolgere, che è quello di rilanciare questo territorio. Il comune a fianco a Montebelluna, Castelfranco Veneto, che ha dato i natali a Giorgione ma anche a Mauro Marin, salumiere vincitore dell'ultimo Grande Fratello, attende il ballottaggio fra due giorni per l'elezione del sindaco. Caduto al primo turno praticamente senza gara il candidato PDL, la sfida è fra PD e Lega. Un esempio di politica del territorio? La signora che corre per il PD corre da sola, mentre il candidato della Lega ha avuto l'onore di vedere correre a Castelfranco Veneto Luca Zaia, ma anche due ministri arrivati direttamente da Roma per un comune di poco più di 30.000 abitanti, Roberto Calderoli e ieri Roberto Maroni. Ministro Roberto Maroni. Ho accettato volentieri l'invito di Luciano a venire a Castelfranco per sostenerlo in questa campagna elettorale per almeno tre buoni motivi. Questo rapporto è una delle caratteristiche che ci sono tra noi leghisti. Il politico deve stare col popolo, non con la burocrazia, con gli aristocratici, con le massonerie varie, dalle banche ai vari politicanti mitteleuropei, mondialisti, globalisti. Questo è un slegare, il popolo deve conoscere il suo rappresentante e anche deve far valere i propri diritti, specialmente il popolo del nord, che è un popolo che si fa sulle maniche quando è ora, ecco, nel bene e nel male. Questa crisi economica è un dato di fatto che non è dovuta al nord, sinceramente, è dovuta... Berlusconi sta facendo abbastanza? Berlusconi si dovrebbe un po' convertire con un po' di più verso la Lega. A Castelfranco vive anche Oscar Trentin, 47 anni, nato nel PC, cresciuto nell'Ulivo, dove è stato anche dirigente, e ora da 3 anni leghista, un passaggio che ha provocato stupore solo al di fuori dei confini veneti. Ho fatto questa valutazione perché la Lega in questi 20 anni è cambiata. Molti della sinistra hanno capito questo messaggio, molti della sinistra sono andati verso la Lega e i dati anche lo dimostrano. Non a caso in questi anni già la cinghia di trasmissione della CGIL, che è la cinghia di trasmissione della sinistra, registrava che gli iscritti della CGIL votavano Lega non soltanto adesso per Zaia, ma già da qualche anno in larga misura. La Lega non è più la Lega della secessione, la Lega dei messaggi lanciati in maniera populistica, ma una Lega di risposte concrete al territorio, la Lega degli amministratori. È una Lega che ha dato rinnovamento, ma anche, visto che la Lega è sempre stata vista da sinistra in maniera un po' rozza, a livello della cultura, solo per dare un dato, la Lega ha realizzato con il suo assessore provinciale una rete eventi che soltanto l'anno scorso ha portato 900 eventi in provincia di Treviso e 18 milioni di euro in più entrati nelle casse, che dimostrano che facendo cultura si fa anche economia. Italia in controluce. I marinai foglie di coca digeriscono in coperta. Il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra. Il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale. Ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare. Ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra. Il brano che state ascoltando, una canzone di Fabrizio De André del 1978, dal titolo Parlando del naufragio della London Valour, un fatto avvenuto esattamente 40 anni fa, il 9 aprile del 1970 per l'esattezza. L'imbarcazione inglese London Valour, a causa del maltempo e di una mareggiata, va a cozzare contro la diga all'ingresso del porto di Genova e rapidamente affonda. 20 marinai indiani e filippini annegano così a poche decine di metri dalla terraferma. Andrea Ferro da Genova con il ricordo di un soccorritore. Al mattino il cielo è terso e il mare una tavola appena ondulata, l'aria odora di primavera. Questione di minuti e all'improvviso la scena cambia, come tra un atto e l'altro senza intervallo. 9 aprile 1970, 40 anni fa. Il vento soffia raffiche sempre più impetuose e addensa le nuvole. È libeccio, gonfia le onde che diventano gigantesche. Dal semaforo scatta l'allerta a tutte le navi in rada, a salpare l'ancora ed allontanarsi dalla costa. Non ci sono ancora le radio di bordo, si comunica con lampi di luce, ma dalla London Valor, una nave battente bandiera britannica, non recepiscono l'avviso. Sballottata come uno scricciolo, la London Valor è ingovernabile, le onde la sospingono verso gli scogli della diga foranea. I soccorsi scattano distinto, è un concerto di abnegazione e coraggio. La motobarca dei vigili del fuoco fa rotta verso la diga. A bordo c'è Giuliano Mucchi. Eravamo in manovra con la motobarca 304, ci hanno detto di recarsi immediatamente, che c'era una nave in pericolo. Abbiamo cercato di uscire dal porto, però la barca non aveva pescaggio, non teneva il mare. Allora abbiamo deciso di attraccarsi. Dall'alto il maggiore Rinaldo Enrico volteggia ai comandi della libellula rossa dei vigili del fuoco. Compie autentiche peripezie per provare a salvare il maggior numero di vite, mentre le pilotine cercano di avvicinarsi alla London Valor, sfidando il mare forza 9. Intanto sulla diga la concitazione non oscura la lucidità. Si decide di montare una specie di teleferica con la quale trasferire i naufraghi. È l'unica possibilità. Abbiamo costruito la teleferica per salvare i primi marinai. Io sono sceso giù nella scogliera, ho legato la fune e ho messo la carrucola. Abbiamo preso i primi tre, li ho presi negli scogli e poi hanno deciso di mettere la moglie del comandante e lì da bordo ci sono fatti sfuggire la fune di richiamo. L'abbiamo presa, l'abbiamo chiamata noi, verso di noi, verso gli scogli. Ho cercato di prenderla, ma un'onda ci ha preso tutte e due. Io sono rimasto incastrato in un tunnel per due volte. La donna l'hanno ritrovata il giorno dopo morta. Sono passato attraverso un tunnel, un mio collega si è girato, mi ha visto, mi ha lanciato una fune e io con una mano l'ho presa e mi ha tirato su, mi ha salvato. Mi ha caricato, sono andato su un battello e poi sono andato all'ospedale San Martino che mi ha curato. Ero pieno di tagli, di ferite ai piedi, da tutte le parti. Alla fine le persone salvate saranno 39, 19 i morti, tra i quali due donne. L'equipaggio era composto da inglesi, indiani e filippini. Genova assiste scioccata ad una tragedia che si era consumata a pochi metri dalla riva. Il ricordo segnerà la memoria di più di una generazione ed ispirerà una canzone di Fabrizio De André. E la radio di bordo è una sfera di cristallo. Dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo, il paralitico tiene in tasca. Il naufragio della London Valor con la rievocazione di Andrea Ferro e la canzone di Fabrizio De André termina qua questa edizione, l'ultima della settimana di Italia in Controluce. Vi ricordo, scriveteci controluce@radio24.it, siamo anche su Facebook Radio 24 Italia in Controluce. Ci sentiamo la settimana prossima.